Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia della poetessa Ilaria Della Cueva, La notte ti penso. Mi dispiace non riuscire nemmeno a guardarti. Non ho forza di parlare perché ho smesso di sperare. Ho solo una penna per potermi raccontare, eppure questo inchiostro inutilmente lo consumo. Non risponderai, vero? Eppure il mio animo si infiamma ogni volta che la notte ti penso. Ogni diritto è riservato all'autore.